Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Una folla di gente, specialmente donne, circondava la chiesa illuminata per il matrimonio. Quelli che non erano riusciti a penetrare nel mezzo si affollavano vicino alle finestre, dandosi spintoni, discutendo e sbirciando attraverso le grate. Più di 20 carrozze erano già state scaglionate dai gendarmi lungo la via. Un ufficiale di polizia, non curante del gelo, stava ritto all'ingresso, splendendo nella sua uniforme. Ininterrottamente arrivavano altre carrozze e in chiesa entravano ora signore con fiori e con gli strascichi sollevati, ora uomini che si toglievano il képi o il cappello nero. Nella chiesa erano già accesi entrambi i lampadari e tutte le candele davanti alle immagini sacre. Lo splendore dell'oro sullo sfondo rosso dell'iconostasi, l'intaglio dorato delle icone e l'argento dei candelabri e dei candelieri, insieme ai lastroni del pavimento, ai tappetini, agli stendardi in alto vicino ai cori, agli scalini del lambone, ai vecchi libri anneriti e alle stole e alle cotte, tutto era inondato di luce. Nella parte destra della chiesa riscaldata, nella folla di fracche e di cravatte bianche, di uniformi e di sete, di velluto, di raso, di capelli, di fiori, di spalle nude e di braccia in guanti lunghi, si svolgeva un chiacchiericcio trattenuto e animato, che si ripercuoteva stranamente nell'alta cupola. Ogni volta che echeggiava lo stridio della porta che veniva aperta, il chiacchiericcio nella folla taceva e tutti si voltavano a guardare, aspettandosi di vedere lo sposo e la sposa che entravano. Ma la porta si era già aperta più di 10 volte e ogni volta era un invitato o un'invitata in ritardo che si univano alla cerchia degli altri, a destra, o una spettatrice che aveva ingannato o impietosito l'ufficiale di polizia e si aggregava alla folla degli spettatori estranei, a sinistra. Sia i parenti e gli invitati che gli estranei erano ormai passati attraverso tutte le fasi dell'attesa. Dapprima avevano supposto che lo sposo e la sposa sarebbero arrivati subito, non attribuendo alcuna importanza al leggero ritardo. Poi avevano cominciato a volgere sempre più spesso lo sguardo verso la porta, domandandosi se non fosse accaduto qualcosa. Poi il ritardo diventò ormai imbarazzante e i parenti e gli invitati si sforzavano di far finta di non pensare allo sposo e di essere intenti alla loro conversazione. Levin, intanto, in pantaloni ma senza il panciotto e il frac, camminava avanti e indietro per la sua camera d'albergo, affacciandosi continuamente alla porta e guardando nel corridoio. Ma nel corridoio non si vedeva colui che egli aspettava e, ritornando disperato e agitando le braccia, egli si rivolgeva a Stepan Arkadic, che fumava tranquillamente. «C'è mai stato un uomo in una situazione così orribile e idiota?» diceva. «Sì, è stupido», confermò Stepan Arkadic, sorridendo in modo rasserenante. «Ma calmati, la porteranno subito». «No, ma come?» diceva Levin con furore contenuto. «E questi idioti panciotti aperti, è impossibile!» disse ancora guardando lo sparato gualcito della propria camicia. «E che farò se hanno già portato la roba alla ferrovia?» gridò con disperazione. «Allora ne metterai una mia. È da un pezzo che bisognava far così. Non sta bene essere ridicoli, aspetta, si accomoderà!» Il fatto era che quando Levin aveva chiesto di vestirsi, Kuzma, il vecchio suo domestico, aveva portato il frac, il panciotto e tutto quel che era necessario. «E la camicia?» aveva gridato Levin. «La camicia l'avete indosso», aveva risposto Kuzma con un tranquillo sorriso. Kuzma non aveva pensato a lasciar fuori una camicia pulita e, ricevuto l'ordine di riporre tutto e di portarlo dagli Scerbachi, dalla cui casa gli sposi partivano quella sera stessa, aveva così fatto, riponendo il tutto fuorché il frac completo. La camicia indossata sin dal mattino era gualcita e impossibile a portarsi con la moda dei panciotti aperti. Finalmente Kuzma, il colpevole, col fiato mozzo, irruppe nella stanza con la camicia. «L'ho trovata per un filo, caricavano già sul carro», disse Kuzma. Dopo 3 minuti, senza guardare l'orologio per non inasprire le ferite, Levin correva per il corridoio. «Tanto così non rimedi», disse Stepan Arkadic con un sorriso, tenendogli dietro senza furia. «Si accomoderà, ti dico!» Thank you. Dopo le solite domande sul desiderio di unirsi in matrimonio e se non si erano promessi ad altri, e dopo le loro risposte che risuonarono strane a loro stessi, cominciò una nuova funzione. Kitty ascoltava le parole della preghiera desiderando capirne il significato, ma non ne fu capace. Man mano che si svolgeva il rito, una sensazione di trionfo e di gioia luminosa sempre più le riempiva l'anima e la privava d'ogni possibilità d'attenzione. Pregavano perché fosse loro donata la purezza e il frutto delle viscere al loro sostegno, perché avessero giubilo dalla vista di molti figli e figlie. Si ricordava che Dio aveva creato la donna dalla costola di Adamo e per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la moglie e saranno due in un'unica carne, e che questo è un grande mistero. Pregavano perché Dio desse loro la fecondità e la benedizione come a Isacco e a Rebecca, a Giuseppe, a Mosè e a Sefora, e che essi vedessero i figli dei loro figli. «Tutto questo è magnifico», pensava Kitty ascoltando queste parole. «Tutto questo non può essere diversamente». E un sorriso di gioia che si comunicava involontariamente a tutti quelli che la guardavano risplendeva sul suo viso, ora tutto illuminato. Quando il prete posò le corone nuziali in testa agli sposi e il principe Scerbachi sostenne quella della figlia con la mano tremante nel guanto a tre bottoni, si udirono consigli: «Mettetela bene!» «Mettetemela!» bisbigliò lei sorridendo. Levin si voltò a guardarla e fu colpito dal gioioso splendore che era sul suo viso, e questo sentimento involontariamente si comunicò anche a lui. Come lei, anche lui si sentì pieno di luce e di gioia. Provarono gioia ad ascoltare la lettura dell'Epistola Apostolica e al rimbombo della voce del protodiacono all'ultimo versetto, atteso con tanta impazienza dal pubblico degli estranei. Provarono gioia a bere dalla tazza piatta il tiepido vino rosso con l'acqua, e provarono ancor più gioia quando il prete, gettata via la pianeta e prese entrambe le loro mani nella propria, li condusse attorno al leggio fra gli impeti del basso che cantava l'Isaia giubila. Scerbachi e Cirikov, che sostenevano le corone, impigliandosi nello strascico della fidanzata, anch'essi sorridendo e rallegrandosi, ora restavano indietro, ora urtavano contro gli sposi alle soste del prete. La scintilla di gioia che si era accesa in Kitty sembrava essersi comunicata a tutti quelli che erano in chiesa. A Levin pareva che anche il prete e il diacono avessero voglia di sorridere come lui. Tolte le corone dalle loro teste, il prete lesse l'ultima preghiera e si congratulò con gli sposi. Levin gettò uno sguardo a Kitty. Mai sinora l'aveva vista così. Era incantevole per quel nuovo fulgore di felicità che era sul suo viso. Levin avrebbe voluto dirle qualcosa, ma non sapeva se tutto era finito. Il prete lo tolse d'impaccio. Sorrise con la sua bocca buona e disse piano: «Baciate la moglie e voi baciate il marito». E gli tolse dalle mani le candele. Levin le baciò cautamente le labbra sorridenti, le diede il braccio e, provando la sensazione di una nuova, strana vicinanza a lei, uscì dalla chiesa. Non credeva, non poteva credere che tutto questo fosse vero. Vi credette solamente quando i loro sguardi, stupiti e timidi, si incontrarono, perché sentiva che ormai loro erano una cosa sola. Dopo la cena, quella notte stessa, i giovani sposi partirono per la campagna. Thank you. Vronsky e Anna viaggiavano già da 3 mesi insieme per l'Europa. Avevano visitato Venezia, Roma, Napoli ed erano appena arrivati in una piccola città italiana dove volevano stabilirsi per un certo tempo. Il bel capocameriere, con la scriminatura che cominciava fin dal collo nei folti capelli impomatati, in frac e con un largo sparato bianco di batista alla camicia, con un mazzetto di ciondoli sulla pancetta tondeggiante, ficcate le mani in tasca, socchiusi con disprezzo gli occhi, rispondeva severamente qualcosa a un signore che s'era fermato. Avendo sentito dall'altra parte dell'ingresso dei passi che salivano la scala, il capocameriere si voltò e, avendo visto il conte russo che occupava da loro le migliori camere, tolse rispettosamente le mani dalle tasche e, fatto un inchino, spiegò che il corriere era andato e che la faccenda dell'affitto del palazzo era conclusa. L'amministratore principale era pronto a firmare il contratto. «Ah, sono molto contento!» disse Vronsky. «E la signora è in casa o no?» «Era andata a passeggio, ma adesso è tornata», rispose il cameriere. Vronsky si tolse dal capo il cappello floscio a larghe falde e si terse con il fazzoletto la fronte sudata e i capelli lunghi fino a coprire metà delle orecchie e pettinati all'indietro per nascondere la calvizie. Gettato uno sguardo distratto al signore che stava ancora lì e lo sbirciava, fece per passare oltre. «Questo signore è russo e chiedeva di voi», disse il capo cameriere. Con un sentimento misto di stizza per il fatto di non poter sfuggire in nessun posto ai conoscenti e di desiderio di trovare una distrazione alla monotonia della sua vita, Vronsky si voltò a guardare meglio il signore che si era allontanato e fermato, e nello stesso istante a entrambi si illuminarono gli occhi. «Golenischev! Vronsky!» Era proprio Golenischev, un compagno di Vronsky nel corpo dei paggi. Nel corpo Golenischev apparteneva al Partito Liberale, era uscito dal corpo con un grado civile e non era mai stato impiegato in nessun posto. I due compagni si erano completamente perduti di vista dopo l'uscita dal corpo e in seguito si erano incontrati una volta sola. In occasione di quell'incontro Vronsky aveva appreso che Golenischev si era scelto un'attività adatta ad un intellettuale di tendenze liberali e per questo disprezzava l'attività e la condizione di Vronsky. Perciò Vronsky aveva allora opposto a Golenischev quella resistenza fredda e orgogliosa che lui sapeva opporre alla gente e il cui significato era questo: «Il mio modo di vivere vi può piacere o non piacere, ma per me questo fa assolutamente lo stesso. Voi dovete stimarmi se volete la mia compagnia». Golenischev, da parte sua, era stato di un'indifferenza sprezzante verso Vronsky. Sembrava che quell'incontro avrebbe dovuto separarli ancor più. Adesso invece si erano fatti raggianti e avevano gridato di gioia riconoscendosi a vicenda. Vronsky non avrebbe mai pensato che l'avrebbe rallegrato tanto rivedere Golenischev. Probabilmente non sapeva nemmeno lui quanto si annoiasse. Aveva dimenticato la sgradevole impressione dell'ultimo incontro e tese la mano al compagno d'un tempo con un viso aperto, gioioso. La medesima espressione di gioia prese il posto dell'espressione ansiosa prima dipinta sulla faccia di Golenischev. «Come sono contento di incontrarti!» disse Vronsky mettendo in mostra i suoi forti denti bianchi con un amichevole sorriso. «E io sento dire Vronsky, ma non sapevo quale! Molto, molto contento! Entriamo allora! Beh, che cosa fai? È già il secondo anno che vivo qui. Lavoro!» «Ah!» disse Vronsky con interesse. «Entriamo dunque!» E per la solita abitudine dei russi, invece di dire appunto in russo ciò che voleva nascondere alla servitù, si mise a parlare in francese. «Conosci la Karenina? Viaggiamo insieme e sto andando da lei», disse in francese scrutando attentamente in faccia Golenischev. «Ah, non sapevo», benché sapesse, rispose con indifferenza Golenischev. «È molto che sei arrivato?» aggiunse. «Io da 3 giorni», rispose Vronsky scrutando ancora una volta con attenzione la faccia del compagno. «Sì, è un uomo per bene e vede la cosa come va vista», si disse Vronsky avendo capito il significato dell'espressione del viso di Golenischev e del suo mutar discorso. «Gli si può far conoscere Anna, vede la cosa come va vista». Thank you. In quel primo periodo della sua liberazione e di rapida guarigione, Anna si sentiva imperdonabilmente felice e piena di gioia di vivere. Il ricordo dell'infelicità del marito non avvelenava la sua felicità. Questo ricordo, da una parte, era troppo atroce per pensarvi, dall'altra l'infelicità di suo marito dava a lei una felicità troppo grande per pentirsi. Il ricordo di tutto quello che le era accaduto dopo la malattia, la riconciliazione con il marito, la rottura, la notizia della ferita di Vronsky, la sua apparizione, i preparativi per il divorzio, la partenza dalla casa del marito, l'addio al figlio, tutto questo le sembrava un sogno febbrile da cui s'era destata sola con Vronsky all'estero. Il ricordo del male causato al marito suscitava in lei una specie di disgusto, un sentimento simile a quello che proverebbe una persona nel ricordare come, in procinto di affogare con un altro, avesse strappato via da sé il compagno che si aggrappava a lei. Quell'altro era annegato. Si capisce, era un male, ma era l'unica salvezza ed era meglio non ricordare quegli atroci particolari. Un solo ragionamento capace di tranquillizzarla le era venuto in mente allora, nel primo momento della rottura, e quando adesso ricordava tutto il passato, ricordava anche questo solo ragionamento. «Era fatale che facessi l'infelicità di quest'uomo», pensava. «Ma non traggo gioia da questa infelicità, perché anch'io soffro e soffrirò. Io mi sono privata di quel che più di tutto avevo caro, il mio buon nome e mio figlio». Ho agito male e perciò non voglio la felicità, non voglio il divorzio e soffrirò la vergogna e la separazione da mio figlio. Ma per quanto volesse sinceramente soffrire, Anna non soffriva. Non c'era nessuna vergogna. Con quel tatto che entrambi avevano in così grande misura all'estero, evitando le signore russe, loro non si mettevano mai in una posizione falsa e incontravano dappertutto persone che fingevano d'aver perfettamente compreso la loro reciproca posizione meglio di quanto la comprendessero essi stessi. Neppure la separazione dal figlio che amava in un primo tempo la torturò. La bambina, la figliuola di lui, era così cara e Anna nutriva per lei tanto affetto da quando le era rimasta quell'unica bambina che di rado si ricordava del figlio. Il suo desiderio di vita, accresciuto dopo la guarigione, era così forte e le sue condizioni di esistenza erano così nuove e piacevoli che Anna si sentiva imperdonabilmente felice. Quanto più conosceva Vronsky, tanto più lo amava. Lo amava per se stesso e per il suo amore verso di lei. Il possesso completo di lui le dava una continua gioia. La sua vicinanza le procurava sempre nuovo piacere. Tutti i tratti del suo carattere che lei imparava a conoscere sempre più erano per lei inesprimibilmente cari. Il suo aspetto esteriore, che con gli abiti borghesi era cambiato, per lei era attraente come per una giovane innamorata. In tutto quello che lui diceva, pensava e faceva, lei vedeva qualcosa di particolarmente nobile ed elevato. Il proprio entusiasmo di fronte a lui, sovente, persino, la spaventava. Cercava e non poteva trovare in lui niente che non fosse bellissimo. Non osava mostrargli la consapevolezza della propria nullità di fronte a lui. Le sembrava che, sapendo questo, lui avrebbe potuto disinnamorarsi più presto di lei, e nulla ora lei temeva di più che perdere l'amore di lui, quantunque nulla le facesse temere questo. Ma non poteva non essergli riconoscente per il suo comportamento verso di lei e non mostrargli quanto lo apprezzasse. Lui, che secondo la sua opinione sarebbe stato portato a svolgere grandi compiti al servizio dello Stato, aveva sacrificato tutte le sue ambizioni per lei, non mostrando mai il minimo rimpianto. Anche più di prima, amoroso e rispettoso verso di lei, si preoccupava ad ogni istante che lei non sentisse il disagio della propria situazione. Lui, un uomo così virile, non solo non la contraddiceva mai, ma non aveva volontà propria e sembrava teso unicamente a prevenire i desideri di lei. E lei non poteva non apprezzare questo, sebbene questa stessa tensione dell'attenzione di lui, questa atmosfera di sollecitudine di cui egli la circondava, talvolta le fossero di peso. I am a maid of constant sorrow, I've seen trials all of my days, I'm going back to California, place where I friends may say that I'm a stranger, my face they'll never see no more. There is but one promise that's given, I'll sail on God's golden shore. All through this world I'm bound to ramble, through sun and wind and driving rain I'm bound to ride the Western Railway. Perhaps I'll take the very next train. I am a maid of constant sorrow, have seen trials all of my days. I'm going back to California, place where I was partly raised. Elsa Agalbato ha letto Anna Karenina di Lev Tolstoi, riduzione del testo di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @chiocciolarai.it.